Questo il Corriere della Sera vi regala il nuovissimo Atlante d'Europa e d'Italia e l'Enciclopedia Geografica Mondiale di Agostini. Ogni lunedì, martedì e mercoledì, da domani. E da America! Cacai America! Buonasera a tutti quanti, siamo alla settima puntata dell'Accademia della Brusca, un inizio veramente scalognato perché abbiamo avuto grossi problemi con la regia, con tutti i file delle bellissime canzoni e musichette che vi faremo sentire stasera, ma al momento insomma siamo ancora qui che cerchiamo di sistemare un po' di cosette, quindi perdonateci se sentirete qualche errore, qualche Santissima Madonna, qualche Santissimo che vola, visto che oggi iniziano anche, almeno dal punto di vista commerciale dell'apertura dei negozi, iniziano anche le feste di Natale, per cui solidarizziamo con tutti quelli che lavoreranno in questi giorni, anche durante i festivi, e quindi tireremo un po' di sacri assieme. Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile. Eccoci col nostro amico Luca Giurato, con il suo ormai famosissimo celeberrimo buongiorno. Buongiorno, buongiorno, per parlare di un nuovo argomento. Settima puntata, abbiamo fatto un bel excursus su tutte le lingue possibili e inimmaginabili, tranne che lo slavoschi, tutte le lingue quindi che arrivano dallo slavo. Ta-da! Eccola! Sono tornata. Ho finito di smadonnare qua e là per lo studio, perché i problemi tecnici non ci abbandonano. Non ci abbandonano mai. Ma forse abbiamo risolto. Sì. Cara la mia Nina, forse i problemi sono risolti. Il nostro caro streaming. La Madonna ci doveva per forza fare il suo santissimo regalino. Oggi d'altronde è la sua festa. Ora mi metto di nuovo le cuffiette fucsia. Sempre molto bisogno di attenzione quella ecco, donna. Ecco. Okay. Posso aggiungere una cosa? Io non c'entro niente con la scelta di questo argomento, con questa puntata. Declino ogni responsabilità. Non aggiungerò niente di mio perché mi sembra non ci sia veramente niente da dire. La mia collega qui è pazza. Andrò a bere intanto che lei vi racconterà tutte queste cose folli. Non potete vedere questo albero linguistico che compare nello schermo, ma fa paura. Abbiamo una semplicissima scaletta di filiazione delle lingue. No, è un DNA di una mucca trascritto malato in sanscrito. No, però. Non è vero, è facilissimo, la Lenia saprà intervenire soprattutto sulle questioni tipo le lingue agglutinanti, queste cose. Non posso fare la pernacchia perché fa un effetto orribile nel microfono. Mettiamola così. Come? No, invece ci aiuterà, vedrete. È sempre preparatissima, se potrà insegnare un pochettino a tutti i suoi bimbetti tutte queste No, cose. però siccome oggi abbiamo avuto problemi tecnici, è un'ottima scusa per defilarmi dal microfono e cercare di seguire le faccende tecniche. Scusa. Al massimo posso fare da interprete in lingua dei segni. Cioè, voi non lo saprete, ma io sarò qui che farò da interprete in lingua dei segni per i nostri amici Non udenti, immaginari. sordi che ci sono. Però una radio in lingua dei segni è una cosa bellissima. Certo, Ok. dovremmo provare. È stata fatta però una radio web, sì, a Bologna. Allora vi Sì. parleremo anche di quella prossimamente. Potrebbe essere Parlo interessante. io in lingua dei segni, dico tutto io, Si sentirà senza un interprete tipo, si vocale. sentirà questo. Bene, ok, premesse a parte, vi Premessa a lascio alla nostra parte. Nina e all'inizio di questa in realtà fantastica puntata. Io vado a risolvere un altro problema tecnico Quello del Vladimiri. che sto facendo una condensa sulla scrivania e Gino e Gine poi ci sgridano insieme a tutti gli Quindi. altri. Quindi devo subito correre a risolvere questo Sì, ma problema. torna presto. Ciao ciao! Torna presto. Oggi, dopo aver parlato di italiano, inglese, maccheronico e non, di tutto il mondo esotico dei broken language, quindi della lingua creola e dei pidgin della settimana scorsa, oggi approdiamo in tema, proprio al freddo e al gelo, affrontando un bel excursus sulle lingue slave. Quindi, perché? Perché la frontiera con i Balcani si apre, un mondo linguistico fatto di origini indoeuropee, e anche non indoeuropee. Io sono stata in Polonia, sono stata in Polonia qualche giorno per lavoro e mi sono resa conto effettivamente che sì, queste lingue hanno una componente latina, ma è veramente minima, cioè io non ho capito una benemerita tutto il tempo praticamente, né leggendo né sentendo i miei colleghi che ovviamente mi parlavano in inglese o in italiano perché loro sono molto più bravi di noi. Ecco. E quindi oggi parliamo delle lingue slave, e con un po' di logica, un po' di approccio iniziale per rendere questo discorso meno ostico. Allora, innanzitutto, prima cosa, niente paura, le lingue Sì. slave sono un gruppo di idiomi appartenenti alla famiglia delle lingue indoeuropee. Però cosa Fua, succede? fua, fua, fua. Brava, questa era proprio. Era Vedi quello come che. sto sul pezzo, nonostante non sia. Fa molto Doraemon, che è qui sulla scrivania con noi, abbiamo una sveglia bellissima con Doraemon, non funzionante ma bellissima. E qual è il problema delle lingue slave? È la loro suddivisione, quindi che è proprio micidiale perché è una sorta di tripartizione che è legata ai confini geografici, alla storia delle popolazioni di questi stati che parlano appunto lingue di origine slava. Però poi ci sono lingue morte, dialetti e altre cose che subentrano e che fanno sì che questa spartizione sia veramente difficile. Ovvero, abbiamo l'indoeuropeo, che storicamente si è evoluto, se voglio, così vogliamo dire, in balto-slavo, che si divide in baltico e in slavo. Quindi le lingue che appartengono alle repubbliche baltiche e le lingue che appartengono invece a tutti. Diciamo tutto l'orizzonte slavo. Per il Baltico, anche questo si divide in occidentale e orientale, abbiamo tre lingue morte, tra cui il prussiano antico, e invece nell'orientale due lingue ancora vive, il lettone e il lituano. E prima avevamo invece il semigallico e il setonico che sono lingue morte. Ma sotto il Scusate, ho detto prussiano, setonico, ma era selonico, scusate. ma sotto il prussiano antico leggo una lingua, si pronuncia Gico, iatvingico? Iatvingico, Ok. perché le repubbliche baltiche hanno un excursus storico particolare, praticamente erano assieme alla Finlandia una zona di grande come dire, interesse per la Russia, per cui prima che arrivassero diciamo, la dinastia dei Riurikidi, quindi i primi conquistatori Le sa russi. tutte, questo intervento non era preparato, ve lo giuro. La storia russa è bellissima. Prima che arrivassero i Riurikidi, quindi la prima dinastia russa da cui sono poi derivati grandi, grandi, grandi nomi della storia che vi risparmio. Queste repubbliche, scusate, queste terre del Mar Baltico che davano sul Baltico, compresa la Finlandia, erano indipendenti e quindi avevano anche una storia linguistica a sé. Poi sono arrivati i russi e infatti se voi vedeste questa cartina vedreste che il Baltico come lingua è uno spazietto piccolo, piccolo, piccolo. Lo slavo è occidentale, meridionale, orientale e comprende... Esatto, comprende di tutto. L'occidentale si era diramato poi nel Lechitico, che è nient'altro oggi che il polacco e lo slesiano. C'erano poi tutte le lingue morte, il polacco antico, il pomerano, addirittura da cui derivano, che era molto simile al tedesco, da cui derivano i cari volpini di Pomerania, quei bei cagnolini terribili che trovate nelle borsette delle signore che abbaiano in continuazione, tutti pelosini. E nel reparto diciamo meridionale, occidentale, sloveno, cecoslovacco, serbo-croato, bosniaco, croato e serbo, che sono tutte quelle lingue invece che appartengono all'ex blocco jugoslavo. Tuttora parlate oggi, nonostante la ex Jugoslavia come federazione di stati non esista più, queste lingue invece sono ancora parlate negli spazi diciamo appositi, quindi linguisticamente esatto, chiaramente è rimasta una definizione che... sì, perché comunque la guerra è finita nel 95-96, non c'è stato il tempo. Infine ceppo orientale, bielorusso, russo, ruteno, ucraino, bulgaro, slavo, ecclesiastico, che usare bene esattamente quello che deriva in realtà da anche questo, da un'antica lingua molto simile al greco, e infine abbiamo il macedone. Quindi grandi esclusi da questo blocco sono l'ungherese e vabbè il finlandese, ma anche nelle nostre menti diciamo la Finlandia è più vista come una terra che appartiene a un altro blocco geografico. Sì. E vedremo perché l'ungherese non c'è qui in mezzo. E un esempio di in tutta questa marmaglia diciamo di lingue difficilissime tutte. Cosa fate? Niente. Niente. Tutte molto, molto, molto, come dire, imparentate tra loro, perché sono tutte lingue agglutinanti, poi vi spiegherò cosa significa. Però abbiamo anche delle lingue morte. Ci state attenti. Non mangiate le lingue slave. C'erano lingue antiche, come ad esempio il polabo, che si è evoluto oggi nel polacco, che è... una lingua molto complicata dal punto di vista linguistico e che sembrerebbe non assomigliare in realtà a tutte le altre lingue slave se le sentite parlare, perché il polacco è invece molto più simile al ceco e quasi al tedesco anche, ha delle pronunce molto particolari. È una lingua molto bella però, e deriva dal lechitico, che è una lingua morta che veniva parlata nell'antica Slesia, quindi in questo territorio che venne conquistato dai Galli prima delle predazioni mongole dell'Orda d'Oro, che hanno interessato anche la Russia, insomma per dircela breve Genghis Khan, ecco, per dirla brevemente. E ora, per farvi entrare con lo spirito nel mondo slavo, vi facciamo sentire una cover bellissima cantata da tre baldi giovani della televisione russa. Non vi dico altro e cantate a squarciagola. Rimango qua finché vuoi, io capisco. scoveri come stai. Posso in te, credo che reagirei. Che consigli vuoi da me? Se poi fai ciò che vuoi te, sai che mai ti direi, guardarei. Chiedere a me che li devi fregare se lo puoi, se non muore va giù, se non ce la fai più, guarda che non esiste solo lei, devi muoverti un po', oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, so quando capita il momento o no, dentro hai un'angoscia che ti rompe e ti apriresti il parto poi per mostrarle parli posto a lei. Non sai più cosa fai, ma sai che la vuoi. Se una ragola c'è, non la chiedere. E se ti ha lasciato addosso male fisico, qua ci vuole solo un po' di senso pratico. E te capolavoro, ragazzi, questa è penso una trasmissione, bellissimo. Non so se sia russa o bielorussa, perché ovviamente cantano una cover di Neck. Pensa un po', ragazzi, il mondo non ha confini. Posso mettere, me lo sento, posso. Vai. Non lo sono goduto prima. Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile, buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile, buongiorno a tutti, soprattutto a loro, ragazzi. Madonna, erano veramente, cioè, se andate a vedere il video, sono vestiti di questo color cacchi improponibile. Io no, non posso continuare a fare le trasmissioni in queste condizioni. Voglio dei pezzi più seri, ma vedrete, oggi vi faremo sentire anche musica classica, i Pansonic, non vi dico nient'altro, saranno cose bellissime. Sì, sì, dai, andiamo avanti, allora, perché sennò si fanno le 11, forza, forza. La suddivisione di lingua slava, una regola sce, che in glottologia si chiama Urheimat, che è una parola tedesca, e indica praticamente la patria dei parlanti di una protolingua, ovvero le lingue slave discendono dal protoslavo, la lingua unitaria, che a sua volta deriva dal proto-indoeuropeo, che è l'antenato comune a tutte le lingue che noi parliamo in Europa. E ovviamente per, tra virgolette, diaspora, si direbbe, comunque per esportazione anche in altri stati, come l'America. E, esiste la teoria secondo la quale l'Urheimat del proto-balto slavo, quindi di tutta, diciamo, la madre delle lingue slave moderne, si dice si trovasse nei territori circostanti l'odierna Lituania, che poi successivamente, in qualche momento, dopo che la comunità linguistica europea si è separata in differenti regioni dialettali, all'incirca tra il 3000, sono poi venute appunto le suddivisioni che noi oggi conosciamo. E, i cosiddetti locutori slavi e baltici condividerebbero quindi questa, diciamo, lingua, diciamo, questo bacino linguistico comune condivide in tutte le sue varianti almeno 289 parole che derivano da questa protolingua. E si ritiene, insomma, che il processo di separazione dallo slavo al baltico, quindi dalle due suddivisioni principali che abbiamo, quindi con Lituania e Estonia e Lettonia che parlano una lingua, e invece tutte le lingue slave, quindi il russo, il polacco, il ceco e insomma tutto quel bacino lì, vediamo appunto che hanno avuto una separazione che è avvenuta tra il 1500 e il 1000 avanti Cristo, quindi è una suddivisione vecchiotta. E tra di loro ci sono anche i bulgari, che oltre che avere una lingua incomprensibile hanno un patrimonio musicale signore. Mi viene in mente qualcosa. Vado? Vadi, signorina. Vado? Parto? Vadi. Ci faccia sentire. Di un mano, di un vero, di un mano, di un vero, che cini cazzi sa di pipero. Pippero. Anche c'era, secondo me Elio non si è accorto che c'era anche scazzata come parola all'interno, forse non l'ha voluta usare. È un ballo più vero. Che bello. E vuoi dirci, Nenia, perché hai scelto, cioè ci siamo messi d'accordo per fare la scaletta e tutti e due ci siamo trovate d'accordo sul Pippero, però lei mi raccontava una cosa carina prima, che una sera spippolando sul tubo e attraverso il pippero di Elio che sono arrivata a conoscere questo pezzo, ovvero come nel caso di Ascanio, non sapevo che il pippero provenisse da Dilmano Dilbero, che è una canzone originale della polifonia bulgara, un canto bulgaro, penso. Tra l'altro bellissimo. Splendido. E quindi in questo nostro viaggio splendido tra problemi tecnici ugrofinnici e bulgari. Attenzione, l'ugrofinnico è un'altra storia. Quella è un'altra storia. Vi continuiamo a fare il nostro bel pippone. Parlaci un po'. Allora, siamo arrivati a parlare dello slavo oggi, che ha delle differenze molto molto molto rilevanti. La prima si riscontra nella ortografia delle lingue standard, ovvero le lingue slave occidentali vengono scritte utilizzando l'alfabeto latino e hanno subito ovviamente maggiori influenze da parte dell'Europa occidentale, per capirci la Polonia. Data l'appartenenza storica di queste popolazioni al credo cattolico romano, appunto, si è sviluppato un linguaggio scritto che utilizza i caratteri latini, e mentre le lingue slave orientali vengono scritte utilizzando l'alfabeto cirillico, che ha un lontano parente, per dirla proprio in maniera molto grassa, del greco, della scrittura proprio greca. Data poi la secolare appartenenza al credo ortodosso e alla profonda influenza appunto greco-bizantina che persisteva appunto da queste parti, le lingue slave orientali poi hanno assorbito comunque molte parole di origine latina, francese, tedesca e italiana, soprattutto durante la campagna di occidentalizzazione della Russia, quindi Pietro il Grande, corso del 1800, ha ridotto drasticamente la differenza, almeno dal punto di vista del vocabolario, del russo. E quindi se voi parlate, sentite parlare un russo, più che altro, a meno che non siate parlanti russi, se sentite parlare un russo vi accorgerete che alcune di queste delle parole, insomma, di ciò che vi dirà nei suoi discorsi, è molto simile, almeno dal punto di vista della pronuncia, alle parole che anche noi conosciamo. E c'è anche un altro gruppo in realtà, quindi occidentale e orientale, ma c'è anche la parte sud che, ad esempio, visto che abbiamo appena sentito il pippero, cioè no, scusate, il mano di Ilbero, il pippero, esistono appunto anche queste varianti meridionali, tra cui il bulgaro, che è molto particolare, il bulgaro e anche il macedone, perché presentano alcuni tratti orientali, quindi l'alfabeto cirillico e prestiti dal russo è un'influenza dal greco, ma molti tratti occidentali, tra cui parole in comune con il croato, alfabeto latino, la cosiddetta influenza mitteleuropea, per cui appunto di origine tedesca, e anche parentele con il ceco. Una particolarità poi di tutte queste lingue invece, che appartiene a... E qui passiamo al pippone grammaticale. Ecco, sta arrivando. Oh. Quindi differenze storiche, differenze geografiche, e ora entriamo sempre più in quello che accomuna le lingue slave, ovvero il genere inanimato. Sono molto carini gli slavi per questa cosa, perché utilizzano ancora il neutro, un po' come farebbero i tedeschi. Il ceco e il russo addirittura poi suddividono ulteriormente il genere maschile in animato e inanimato. Quindi se si deve parlare ad esempio il russo del tavolo, che è maschile, si utilizzerà una declinazione, perché i russi non hanno l'articolo, una declinazione dedicata appunto al neutro, e invece se si dovrà parlare di un uomo si utilizzerà la declinazione dedicata al maschile animato, a meno che l'uomo non sia morto. E se invece il tavolo, come nelle fiabe, si muove, parla o ha qualche caratteristica animata, che succede? Oh, chiediamolo, andiamo a consultare i libri di Grimm, che era anche questo è il momento di postawombat@insiberia.net. Fatecelo sapere subito! Diteci un po' se lo sapete. Direi che il pippone potrebbe includere anche un sacco di altre cose, del tipo che sono tutte lingue agglutinanti queste, quindi che hanno morfemi molto piccolini che vengono accorpati per formare parole composte lunghissime, e verbi perfettivi e imperfettivi a seconda che l'azione che vogliamo esprimere sia stata compiuta o no, quindi finita o meno. Ma dopo questo pippone è arrivato il momento di ascoltare il vero pippero, quello che per noi è il vero pippero. Umorismo. Umorismo. Здравейте, ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторе Тезе. Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della radio e televisione bulgara, che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo, più umano, più vero. Più umano, più vero. Un ballo sincero. Certo, vista la situazione internazionale, noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya. Però amici, vi assicuro che ne è valsa la pena. Pippero. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa, ma dedicatevi al pipero. Popolo bulgaro, popolo italiano, servizi segreti bulgari e italiani, via. Sentite come pompa il pippero. Pippero. Ruotate le dita. Pippero. ripetete con me: più umano, più vero. Più umano, più vero. È un ballo straniero. È un ballo straniero. Qui l'atmosfera sa di pippero. Qui l'atmosfera sa di pippero. Se in discoteca balli u pippero, u pippero. Se in discoteca balli u pippero, u pippero. Molto bene, ora da sole. Molto bene. Pompa, pompa. Dio buono, come pompa il pippero. Pippero. Le falangi, state stringendo amicizia con persone che hanno il colore della pelle diverso dal vostro? Bravi, ora è il momento di cantare a squarciagola. Ramaya, ramaya, ramaya, rara. Pippero è un ballo che io e te balliamo se l'amore c'è, e l'amore c'è. Guardi me, bugiardo io, bugiaro in te, bugiardi noi, sperando che l'amore c'è. Se parlo in te, tu parla in me, e saremo ok. Ehi, coro delle voci bulgare, io posso offrirvi qualcosa di molto meglio di un semplice ramaya. Potrei darvi Kung Fu Fighting di Karl Dagger. Fly Robin Fly. Non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares. Ali Shuffle. Niente. Disco Inferno. Qualcosa di Cerrone. Oppure Boney M. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Disco Duck. No. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan, All the Way. Evviva! Evviva il pippero! Mica solo il rovescio della medaglia, gli applausi in studio, cari, capito? Cari. I nostri sono veri, bellini! E comunque qui abbiamo anche un autodato di 8 Hz che sta cercando di sabotarci la trasmissione. Mi stanno venendo i dubbi che i problemi in regia siano stati causati da lui. In realtà sto cercando solo di bere. Bravo! Perché anche Radio Wombat è ora dell'aperitivo. Sì! Se anche voi volete digerire meglio tutti questi pipponi linguistici, potete dirci cosa state bevendo d'aperitivo su postawombat@insiberia.net. Ora controllo, vediamo se è arrivata qualche dice. Mail. Cosa dobbiamo dire adesso? Dobbiamo parlare del grande escluso. La grande lingua. Dobbiamo parlare del grande escluso. Povero, il Magiarino. Povero. Cari amici magiari, quanto vi capiamo. Sì, no, autodate. I magiari sono gli ungheresi. Ovvero, esatto, l'ungherese, meno conosciuto come magiaro, si può dire sia magiaro che magiaro. Perché, ah, sì? Sì, si può dire in entrambi i modi. Si dice in genere magiaro, ma si dice anche magiaro. Che in ungherese si dice magyar nielv. Cosa? Megera o megera? Megera o megera? Aspetta, la megera c'è qualcosa magiara da lanciargli? Doraemon? No. Mi sa che tu delle patate. No. Scusate, il mixer. La papera. No, è tutto morbido qui dentro. Abbiamo una papera fantastica. È tutto morbido. Che ci accompagna nelle varie attività ludiche. Sta volando, tra un po' succederà qualcosa. D'altronde è festa, oggi è ma festa sì, anche infatti. Per noi. Dai, su. È festa anche per gli ungheresi. Ecco, per l'appunto. Sentiamo un pochino Poverini. Cosa abbiamo da dire su questa povera lingua esclusa da tutto e da tutti. Quando, che ceppo è? Quando guardate l'Atlante, voi nella parte est dell'Europa vedete anche l'Ungheria, ma sappiate che l'ungherese, e forse molti di voi lo sapranno, non è slavo. perché l'ungherese è una lingua del ceppo ugro-finnico, parlata in Ungheria e nelle zone adiacenti della Romania, della Slovacchia e dell'Ucraina, anche in Serbia, in Croazia, una piccolissima arrivo parte, anche fino alla Croazia, Austria e Slovenia con un particolare dialetto. Faccio finta di essere stupita, in realtà l'avevo già letto 2 secondi fa. 13,6 milioni di persone parlanti ungherese come lingua madre, delle quali circa 9,5 milioni stanno in Ungheria. Ed è per questo che questa è la lingua non indoeuropea più parlata nel territorio europeo. Ah, ecco, l'Ungheria vedi? È gigantesca. Sì, infatti sì. Ed è una lingua molto particolare, poi tra un pochino ve la facciamo sentire. Vedi come si fa, noto date. Partecipi alla discussione anche senza sapere niente. Basta sapersi un po' atteggiare davanti al microfono, muoversi come sto facendo io e dire ah, oh, bello, Ma stai attenta perché adesso mi devi aiutare, Parliamo della tassonomia linguistica dell'ungherese o del magiaro, ovvero maledetti. La filogenesi, quindi tutta la filiazione dell'ungherese è parte da una lingua uralica, diventa ugro-finnico, si divide nella parte ugro, perché finnico è il finlandese, ugro-ungherese, e si arriva all'ungherese, che ha queste caratteristiche principali condivise poi anche con il finlandese, ovvero verbi coniugati per persona e numero. Quindi mangio, mangiamo, cioè una persona fa qualcosa, quante persone fanno quel qualcosa? Esatto. Come nell'italiano, e fin qua ci siamo. Non possiedono aggettivi e pronomi possessivi, ma trasmettono questa informazione attraverso la declinazione. Questo è già più difficile anche da ricreare in un esempio, esatto. Però tipo mangiolo mio. Mangiolo mio. Che poi è tutto compreso nel prezzo. Tutto proprio. Ma è allucinante perché poi, appunto, essendo anche questa una lingua agglutinante, quindi è formata da piccoli morfemi che compongono parole lunghissime, tra un po' ve le facciamo sentire. Per questo motivo, appunto, è proprio per questo motivo che le parole sono più lunghe, perché appunto hanno un sistema di declinazione. In più è una lingua pro-drop, anche per il motivo che abbiamo detto prima. Scusa, quando leggo pro-drop ho sempre questa reazione davanti a qualsiasi commissione di esame e o libri e a me ci hanno rovinato la vita con il pro-drop, con gli alberi in linguistica, ragazzi, davvero. Ormai li facciamo come se fossero il sudoku. E quindi è un pronome soggetto facoltativo. Facoltativo, si può spostare all'interno della frase, ma penso proprio che questa cosa... Che crei quel vuoto del pro. Esatto, sia anche Stardi. Poi legata, se non sbaglio, alla questione della declinazione. Sì, per forza. Si sposta. Cioè, è lì, deve solo muoversi. Esatto. Per farvela semplice, in italiano diciamo la casa e loro potrebbero dire casa là. Ok, mettiamola così. Lupulula. Attenta perché te lo trovo, attenta. E questo è insomma le proprie caratteristiche più semplici di questa nostra cara lingua. E sappiate però che non è soltanto una lingua antica, una regione antichissima e bellissima, ma l'Ungheria è un paese dove si canta anche molto, dove si ascolta buona musica. Non so come introdurlo questo pezzo. Ci penso io. Allora, non crediate che tutto quello che ascoltiamo sia ricercato finemente da degli esperti. Io ho semplicemente tradotto musica, rap, antifascista, di militanza, e mi è comparso un pezzo, ma io non lo so se sto facendo una cazzata oppure no. Diciamo così, io lo metto, però se poi qualcuno conosce l'ungherese e questo spara delle robe xenofobe, per favore ditemelo e lo levo subito. Scrivetecelo. Perché non avevo altri strumenti per avere questo riferimento musicale. Yo voy magyarázás, a magyarázkodás jobbról balról, de magyarázat nincs. Az igazi bűnösök irodája ajtaján, te nem juthatsz be. Belül a kilincs, ez belügy, hatalom, pénz, de minden legál. Semmi törvénytelen, neki kettő feláll, mert ők hozzák meg azt is, hogy mit lehet, meg mit nem. Nem bonyolult neked semmit, nekik mindent, ez belügy. Egy bobli kózanosztra, egoista gerinctelen ficsúrok csapata, egy tiszaparti bajta helyett Dunaparti palota. Becsületet nem ismerő korrupció tanoda. Az Isten szó, itt csak egy kampány szlogén. Minden övön aluli, minden tisztességtelen. Képviselnek esküvel a felemelkedésért, felelősség teljes munkába, aki mihez ér. Hát öcsém, ha teheted, akkor még most költözz el onnan. Központilag irányított, tudatos butitás, egészséges szegénység, cukorimportálás, töketlen bénázás, bankokra kenése, otthontalan emberek szőnyagalá seprése, elvesztett lakásuk visszavásárlása, sajátra banktól itt csak egy kiló egymása. Úttalan hidak, alap útra tervezése, 100 méter macskakő újrafejlesztése, terelés, jól működő félretájékoztatás, barátok közt iradó, ez a való világ. Pókember és kender ellen terror elhárítás, elbukott rossz, ez még újra hasznosítás. Még nem létező bevételek, előre elosztása, kecskére káposzta, mehetsz a postára. Has, akkos, gyarapítsd, de külföldön nem kell ide a tudományod, elég a műköröm. Itt ügyködnek Magyarország legképzettebb agyai, tudásukat beleadva anyait, apait. Kaja, pia, kokain, neked egy kis hidokai, ne érezd a föld, az övék, gyöntő tokai. Csak annyian vannak, ahány nap van egy évben, összesítva jó szándékuk annyi, mint egy légyben. Egy ficsúr egy hónap alatt annyit viszel, mint a párt 20 év alatt, ezt nem hiszem el. Így van ez pedig, jár ami jár, az ízlelő bimbók is elkoptak már. Mert először csak nyaltak érte éveket, de csontig ma a kis titkár üvöltözi, fúj a mocskos komcsik. A bűnözoknit leváltotta, a teli beszart alsógatja, nem segít a mosás, már rajta maradt a foscsik. Kuka, a szennyes ág megtelt, kuka, a szenny már nem kell, jó közérzetet, csak egy tiszta váltás adna. Nem lehet sajnos még, mert túl sok a szenny ma. Kuka, a szennyes ág megtelt, kuka, a szenny már nem kell, jó közérzetet, csak egy tiszta váltás adna. Nem lehet sajnos még, mert túl sok a szenny ma. Egy zsebkendőbe száradt gondó mondogatja, ő a jobb. Gyűlöletre építene szebb jövőt, na takarodj. Reménytelen emberekben ébreszteni hamis remény, beteg nézeteid érdekében, na az kemény. Hazafi hős, a tiszta lelkű magyar, oh. Inkább szégyeld el magad, de nem. Ő büszke, mint a Führer, a következő AMD-n vár a Dürer, gyere ott tartsál beszédet, meséld el, hogy hogyan fejeznéd be, amit elkezdett a vezéred. Kritizálni gyönyörűen tudod ezt a kormány, tényleg le a kalapad, de a tudomány itt megállt. Szép dolog a népmese, a viselet, a hagyomány, de neked ez csak kampány. Lényeg a hatalomány, ne úszítsd az embereket, nem vagy te más, csak egy erős pista, túltengésű rasszista portál. Rubik kocka, pixalámi, szvak, unikum, a gyűlöködő butaságotok lett az új hungarikum. Fúj a büdös tudós, magyar Nobel-díjasok. Helyette íj meg, nyíl, de legyen sok. Mert hogy 800 éve mi volt itt, még nem volt WC. Az akkoriak a dolgokat máshogy intézték. Változott a világ, nagyot keveredtek vérek. Ebből lettél te, én, ő, a magyar, érted? Hogy ne vezesd félre ezt a megkeseredett népet. Ettől nem lesz kenyér az asztalon, csak méreg. Találj ki jobbat, okos fiú vagy te. Retorika négyes felé, etika egyes, ülj le. Irán, mutatja meg neked, mi az irány. Majd elhívod a baridat, hogy intézel a cigán. Aztán kéz a kézbe kilőnétek Izraelt meg Amerikát. Az egyetlen napilapja az országnak a barikád. Ez a te szebb jövőd, hazánk ügye. Rosszul látod, Magyarországon nem mindenki hülye. Na szedd össze a seregedet, éjjelző tömegedet. Induljatok harcba, a perzsa megveszi a jegyet. Palesztinai számíthat rád, nagy szavak embere vagy. Hazámat hagyd ki, ebből te tiszta lelkű magyar. Na Isten áldjon, Szaleme Leikú létre ott. Az elterelés mesterének hiányozni fogtok. È lunghissimo, 7 minuti e 24, quindi bello, abbiamo... bello, bello. Però, avete sentito? Considerando come, che oggi abbiamo dei tempi un po' stretti, un pochino, sì, visti i problemi di regia, insomma. Quindi, ora è arrivato il momento di ascoltare tutti insieme un po' di le parole più strane e le pronunce più particolari di queste lingue slave. Abbiamo portato 4 esempi principali: l'ungherese, il ceco, il polacco e il russo. E ora vi facciamo sentire quanto è agglutinante, quindi di quanti morfemi si può comporre una parola dell'ungherese. La parola più lunga di questa lingua è una parola che significa... Dell'ungherese intanto, giusto? Sì, sì. Dell'ungherese, okay. Esatto. sondaggio per la qualificazione del vice direttore del Dipartimento dei Controlli, del controllo dei processi. Wow. Parola che da noi non esiste, invece in Ungheria è un mestiere. Siete pronti? Ed eccola! Folyamat ellenőrzés, ügyosztályvezető helyettes képesítés vizsgálat. Vogliamo farla risentire? Caspita! Folyamat ellenőrzés, ügyosztályvezető helyettes képesítés vizsgálat. Ok. Cioè, tipo, se a un bambino di tre anni chiedono che lavoro fa tuo babbo, lavora per il Folyamat che ne sono... Brava! Solo la prima parte, poi mi sono dimenticata tutto. E poi c'è una parola bellissima che è improfanabilità. Megszentségtelenníthetetlenség. Ok? No, quindi okay. Questa non prendo nemmeno il via. Posso risentirla? Sì. Megszentségtelenníthetetlenség. Che bello. Capito. Però, come dire, tutto questo agglutinamento mi ha fatto venire voglia di sentire un'altra cosa. Io lo so. Un ungherese a Londra. Lo vuoi davvero sentire? Lo voglio sentire. Sei sicura? Sono sicura. Allora, ieri ho sentito in una radio, nell'unica radio che ascolto oltre Radio Wombat e oltre la Radio Amica di Torino e di Milano, la radio quella ufficiale, lo possiamo dire, Radio 3. Radio 3. Ho sentito dire Monty Python. E mi chiedevo, ma forse allora sto sbagliando io? E invece no. Non si dice Monty Python, si dice Monty Python, Monty giusto? Python, perché è PY, non è sì. PH, giusto? Esatto. Ok, perché io pendo un po' dalle labbra delle trasmissioni, quelle sagge, quelle colte. E allora sacre. Un pochino mi no, faccio no, no. Delle domande. È Monty Python. Mi metto sempre in discussione. Quindi certo. Ora sapete che cosa vi faremo sentire. Nel lontano 1971 l'impero britannico era in rovina. Gli stranieri affollavano i suoi centri, molti dei quali erano ungheresi. Non i centri, i cittadini erano ungheresi. Ad ogni modo, molti di questi ungheresi andavano dal tabaccaio a comprare le sigarette. Ecco qua, grazie. Buongiorno, desidera. Io non acquisterò questo disco perché è graffiato. Come? Io non acquisterò questo disco perché è graffiato. Oh, no, questa è una tabaccheria. Il disco? Tabaccheria. Oh! Io non acquisterò questa tabaccheria perché è graffiato. No, tabacco, sigarette. Sigarette. Yeah. Bene. Il mio overcraft è pieno di anguille. Il mio overcraft? E pieno di anguille. Oh, fiammifere! Non vorresti venire a prendere il tè a casa mia, bel maschione? Sono 6 scellini, prego. Se ti dicessi che hai un corpo bellissimo, ti schianceresti contro di me, io non sono più infetto. Posso? Io posso. Sono sei scellini. Sei, ecco. Yande yasha, gritenevi, strovenco. Tu hai delle splendide cosce. Cosa? Mi ha colpito. Ma tu pantaloni sarà ritorno, non posso aspettare che faccia buio. Che i miei capezzoli esplodono di piacere. Il gentiluomo ungherese fu poi rilasciato, ma grazie alle sue informazioni fu possibile arrestare e giudicare il vero colpevole. Lei è oggi accusato di aver pubblicato il 28 di maggio intenzionalmente e con maliziosa premeditazione uno pseudo dizionario frasario tascabile anglo-ungherese col deplorevole proponimento di turbare la quiete pubblica. Come si dichiara? Non colpevole. Signor Yalk, ha pubblicato lei questo dovunque vai ti capiranno? Sì, io. Con il permesso della corte vorrei fare un breve esempio. La frase ungherese che significa scusi, può dirmi dov'è la stazione ferroviaria? È qui a fianco tradotta con la seguente frase: per favore stringimi forte le chiappe. Per favore, stringine forte le chiappe. Oh, sì, lei superi l'ufficio postale, ancora 200 metri, poi al semaforo giri a sinistra. Dritto, semaforo, sinistra. Un capolavoro. Ungheresi, i nostri amici ungheresi ci staranno odiando, non odiate. Ma come facevi a non mettere questo? Sarà troppo dai. È colpa mia, è tutta colpa mia. I cosiddetti misunderstanding. Allora, siamo quasi alla fine e quindi vi facciamo sentire molto brevemente russo e polacco. Vi facciamo sentire un pochettino qual è la pronuncia, soprattutto quanto sono incredibili le parole più lunghe e agglutinate. Non abbiamo l'audio del russo, ma andiamo col polacco. Andiamo con polacco. Non c'è audio del russo, andiamo con polacco. Aspetta, riproviamo, perché magari hai visto. Non ce l'hanno messa, no, perché intanto vi diciamo, stiamo utilizzando un sito bellissimo e ve lo consigliamo oggi al posto del libro, che si chiama lingvo.info. E qui troverete un database praticamente di delle particolarità delle lingue di tutto il mondo, con anche esempi proprio sonori, ed è un sito veramente utile e molto interessante, bello anche così per farci un giro, per curiosità, lingvo con la V di Verona.info. Ora andiamo col polacco e vi facciamo sentire uno scioglilingua. Siete pronti? Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Cioè, il re Carlo comprò alla regina Carolina una collana color corallo. Posso farlo risentire? Sì, bellissimo. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Che è un po' come 33 trentini per noi, forse. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Se la leggete non è così difficile, korale koloru. Sì, è. Insomma, il problema è capire quello che sta dicendo. E visto che il russo, il nostro caro amico Lingvo, non ce lo vuol far sentire, andiamo a controllare, non si sa mai nulla. Allora andiamo a sentire il cieco. Oh, che la nenia c'è stata quest'estate, è una lingua stupenda. E possiamo far sentire una delle parole più lunghe, tipo impossibile da commercializzare. Pronti? Vai. Nejneskomercionalizovavatelnejšího. Ecco perché quando ho chiesto posso comprare un San Pietrino mi è stato detto qualcosa tipo Nenie, che sembrava il mio nome. Nenie, ma c'era... Ho detto chissà che mi ha detto. Ti ha detto questa cosa qui che significa impossibile da commercializzare nella forma superlativa maschile singolare al genitivo. No, non ce la posso fare. È bellissimo però, vedete quanto ci divertiamo. E poi c'è una cosa bellissima, metti il dito nel collo, che qua dice che una frase curiosa, io non ho idea, chissà. Un po' Monty Python. Metti il dito nel collo, che si dice? Penso... Strč prst skrz krk. Wow. È bellissima. Strč prst skrz krk. Cioè, in questa frase non c'è una vocale neanche a pagarla oro. No, ma non ne usano proprio. Dico io quando bevo slip chips, la trasmissione del mercoledì, slip chips, un po' da tosi, slip chips, è quello. E quindi, beh, d'altronde... Aspetta, posso farlo risentire? Sì. Strč prst skrz krk. Sembra rumore, se mi dai il sacchetto delle patatine, lo muovo un pochino così... Fa lo stesso. Che cosa ha detto questo pacchetto di patatine? Metti il dito nel pacchetto di patatine, vuoto. Vuoto, ma. Perché ce le siamo mangiate tutte. Ma sarà. E niente, questa... Cacchio, questa era la nostra rubrica di oggi. Vedete, oggi... Perché con questi problemi tecnici ci siamo dimenticati di mandare... La nostra... In che senso? In che senso? E ora ve lo faccio anche nei secondi. In che senso? Sì, oggi è una tragedia, però è venuto tutto bene lo stesso. Esatto, questa è stata la sigla di chiusura. Tola, bravissime, questo non ci serve. Ora sto iniziando a riordinare questa scrivania per non chiamarla adesso. Insomma, l'Accademia, d'altronde non saremmo l'Accademia della Brusca. Perché qui bisogna mantenere un pochino di ordine con tutti questi programmini. Cosa vogliamo sentire, cara? Prima dei saluti io metterei... qualcosa che ha a che fare con una di queste lingue, eh? In che senso? In che senso? La polacca in la bemolle dall'eroica Friedrich Chopin. La mettiamo? La sì. Mettiamo? L'accendiamo? Le vai. Thank you. Eccoci, Frédéric Chopin, polacca in la bemolle maggiore. In realtà ci siamo perse 2 secondi perché stavamo scegliendo l'immagine che accompagnerà il podcast nel sito e abbiamo scelto quella più cattiva, ma non pensiate che la mettiamo per cattiveria, ma proprio per creare un contrasto linguistico fra un cognome, un marchio, un nome e quello che invece nella nostra lingua può significare, e ci teniamo, e quindi ho battuto anche sul tavolo, lo mettiamo. Oh, ecco, e poi fateci sapere cosa ne pensate. Però ricordatevi che non lo mettiamo con tizze cattiveria, ma così. È appunto proprio specchio dei tempi. Tutto evoluso, nulla è lasciato al un caso. Un saluto quando vedrete questa cosa, un saluto al caro Lapo, Lapo Elkan e la sua nuova bellissima goliardata. Mi ero ripromessa di salutarlo in diretta, se mai ci ascolterà, e volevo dirgli che anch'io ho provato dicendo su un social network che mi avevano rapita, ma mi hanno riso tutti in faccia dicendo che volevo soltanto i soldi per pagare l'anticipo delle tasse del 2017. Vabbè, ragazzi, succede, che vi devo dire? Capito, è così. Capito. È un attimo, uno si distrae un attimo e non viene rapito. Oddio, ma sono stato rapito. Ops. Oh, $10,000, babbo. E nulla. Chiudiamo la puntata con un pezzo che non c'entra un cazzo, ma ci piace tanto, e quindi ve lo beccate. Non c'entra granché, ma è molto bello, e quindi c'entra sempre. C'entra perché sono finlandesi gli autori. E quindi così parlano una lingua incomprensibile come tutte quelle che abbiamo citato, esatto, quest'oggi. Sono Mika Vaino e l'autodato ci dice boh, perché io sapevo che nei Panasonic che andremo a sentire c'è Mika Vaino e l'altro X. Però entrambi pare che bevano come dei matti, e quindi sono simpatici, sicuramente sono gioviali di compagnia, e allora facciamo dare sì, vabbè, ma non è detto, chissà. Ah, ma il rubricone! Ragazzi, gli appuntamenti del rubricone. Fine settimana! Fermi tutti! Allora, si fa giorni dispari io e giorni pari tu, ci stai? Via! Venerdì 9, Polveriera! Auguri! In Polveriera alle ore 18 concerto, Recane e suo marito, più Squirt Parade Show, Sabato 10! Sabato 10 al Next Emerson di Firenze, in via di Bellagio, concertone! Ovo, Idle God and the Mild, a cura di Diodrone e del collettivo Nuovi Romani. Però ragazzi, attenzione, chi verrà a questo concerto non sentirà soltanto Ovo, Idle God and the Mild, ma anche un fantastico secret show di cui non vi diciamo nulla. No, quindi vogliamo saperne di più, dai, un piccolo indizio? No, non si può dire un nulla. Un dettaglino? Non si può dire una nulla. Roba tipo così pochino, come di un'anticipazione che però non anticipa niente. Diciamo che ci sono i droni, è roba lenta, è Diodrone, per cui ci sono i droni. Io vado. Non solo, ci sarà anche il Taz in posta sorpresa, trovate... Vorrei, ecco, qui vorrei tipo, lo dico in lingua dei segni, sdoppiarmi. L'ubiquità sdoppiabile, la persona sdoppiabile. Dovrò decidere, però deciderò un posto, chissà, non posto si sa. Chiuso. Questo la è crepa appunto... me la godrò dai racconti e dalle varie siamo riprese. Vecchi, sì, ormai, figurati. Se volete informazioni, nella fossa. No. Se volete informazioni. Nel senso che camminavo nel prato e sono in piede. Il Taz sarà in un posto sorpresa. Se volete informazioni, taz-lacrepa.tk. E sarà tutto a partire dalle 12:30 di più sabato. Più o meno, sì. Bomba. Belli. Giorno pari. Tocca a me. Dispari. La domenica però... Sì, beh, sì, dispari. Domenica 11 dicembre, dalle ore 19, presentazione di Fascisti del Terzo Millennio per un'antropologia di Casa Pound. Ragazzi, questa va assolutamente vista, ma è una figata. di Maddalena Gretel Cammelli ed Ombre Corte, edizione Ombre Corte, al Next Emerson nuovamente. Ah, guarda, quindi questo, se volete, posto è veramente molto attivo. Se volete, potete stare a dormire infatti, al Next Emerson. Infatti, scusa, chiediamo a questo Emerson se ci lascia una camerina e si fa sabato notte. Allora, pomeriggio alla TAD. Sera, sentire... Sera, si arriva così... Show. A pie pari subito tra a vedere tutto lo show, compreso anche quello un po' segreto. Oh, ragazzo, però... Tutta roba un po' segreta, questo sabato un po' segreto, un sabato qualunque, un sabato segreto. Poi si sa subito, pomeriggio, domenica, si dorme all'Emerson. Senti che roba, ce l'hanno il parcheggio all'Emerson? Sì, c'è un buon ampio, allora, c'è un ampio parcheggio. Via di Bellagio, c'è parcheggio in via Reginaldo Giuliani, quindi dalla parte di Castello. Però, cioè, se io dico ai bimbi dell'Emerson, bimbi, mi fate la sola macchina qui, che dormo qui, che sto, a vedere la serata, manca la presentazione del libro, e loro mi diranno ma sì, via, e mi faccio tutte e due le serate con un solo viaggio, capito? Quindi, se volete conoscerci dal vivo, c'è caso che ci troverete sabato, cioè con azzeramento inquinamento, un unico viaggio, due serate. Poi si sta qui, magari si dà mano a pulire, perché visto un posto sicuramente ci avrà bisogno di mano. Perfetto, mi raccomando, fascisti del terzo millennio. Bello, bello, ci siamo. No, cioè non è che noi siamo, fermi, non è che siamo dalla parte dei fascisti del terzo millennio, apposta, si viene a vedere la presentazione di un libro, cioè per un'antropologia di Casa Pound, c'è anche, ragazzi, un disegno che sicuramente è di Zero Calcare, insomma una roba mica. A partire dalle 19? Dalle 19, c'è anche la cena vegana, probabilmente, o comunque vegana e non, quindi... qualsiasi problema mentale e alimentare ci abbiate, anche semplicemente la dieta, venite a mangiare, che volete essere belli in costume. Esatto, certo, si prova costume, per fare il tuffo costume di carnevale, per fare il tuffo nell'Arno. Io devo fare la prova costume, ma di carnevale. Beh, per quella io potrei imbottirmi di bomboloni. Vabbè, ok, bene, basta, ciao. Vi lasciamo, ciao, allora, buongiorno, con quest'ultimo buongiorno a tutti. Giallo. E vi lasciamo con quest'ultimo pezzo. Alla fine abbiamo un po' sforato, sette minuti. Vabbè. Oggi può. È festa. Santa la Madonna, sempre e subito, sempre solo santa, la Madonna. Santa subito. Yeah. Ciao, arrivederci. A giovedì prossimo. A risentirci. Ciao. Un momento e arriva il pezzo. Avete visto? Ancora. Siamo ancora problemi. Qui. Ciao.